passerà, baby. Tutto passerà, tutto passerà, sarà, passerà, sarà, sarà. Tutto passerà, tutto passerà, baby. Tutto passerà. Aspetta solo qualche istante, il dolore costante, ma l'importante è che tutto passerà, sarà così improvviso, che le lacrime verranno deviate da un tuo sorriso. Tutto passerà, sarà un treno che andrà via lontano, passerà come la torcia, sì, di mano in mano. Tutto passerà, passeranno i giorni bui, non penserai più a lei, non penserai più a lui. Tutto passerà, perderà peso quel tuo ricordo, sarà a fuoco che pian piano strugge il bordo. Sarà poco importante, sarà così distante che diventerà il racconto di una vita fa. Tutto passerà, il vento porterà con sé i ricordi ormai passiti dall'alcol ai porti di nottate e poli. Tutto passerà, se stavolta sarà diverso, guarderò il cielo tra le nuvole, vedrò l'universo. E sarà così diverso, sarà così immenso che non potrà piovere ovunque, se mi bagno non ci penso. Perché stavolta ho visto il cielo, c'erano le mie parole. So che se voglio posso andare dove c'è il sole. Partire adesso in questo momento senza destinazione, senza schemi di tempo sul primo treno in stazione. Una sacca e qualche indumento, stoppa il furgone per sentirmi libero, una volta sul migliore. Tutto passerà, sarà un treno che andrà via lontano, passerà come la torcia, di mano in mano. Tutto passerà, passeranno i giorni bui, non penserai più a lei, non penserai più a lui. Tutto passerà, perderà peso quel tuo ricordo, sarà un accordo che pian piano stringe il mondo. Sarà poco importante, sarà così distante che diventerà il racconto di una vita qua. Tutto passerà, le cose serie, le stronzate, dalla fine di un amore all'abbandono di un padre. Tutto passerà, tengo che tu lo sappia, lo dico per esperienza, rimane solo la rabbia. Un pianto a voce alta, un urlo liberatorio, spaccare qualcosa aiuta, niente rame di rasoio. Cambia il taglio di capelli, fumati 100 spinelli, compra vestiti che non usi, camicie, cuffiette, emporio, quelli come noi. Mi ferisce e non li uccidi, non son come tu mi vuoi o come tu mi preferisci. Uccidi i tuoi ancora, fai parlare il cuore, fuori più grosso, forti di teresini. Ricordo mio passerà, sarà un treno che andrà via lontano, passerà come la torcia, sì, di mano in mano. Tutto passerà, passeranno i giorni bui, non penserai più a lei, non penserai più a lui. Tutto passerà, perderà peso quel tuo ricordo, sarà un accordo che pian piano stringe il bordo. Sarà poco importante, sarà così distante che diventerà il racconto di una vita fa.